La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24 da Oscar Giannino e grazie per l'ascolto in diretta in podcast. Qui la versione di Oscar, in diretta da Milano, 16:30 primi 43 secondi. E anche questa puntata nasce dalle vostre richieste. Ieri una raffica di persone hanno scritto dicendo: spiegateci che cosa è successo, quello più o meno, immagino molti voi lo abbiate capito, ma che cosa può avvenire, che cosa bisogna aspettarsi sul tema legge elettorale nazionale, stiamo parlando di quella italiana, dopo ciò che è avvenuto a Montecitorio, cioè l'apparente, insomma, però abbastanza esplicita rottura di un patto, in particolare del rapporto tra 5 Stelle e PD. Questa legge elettorale proporzionale col tetto al 5% e poi corretta sulla preminenza che prima non c'era dell'eventuale candidato nominale rispetto a quello dei listini, corretta per evitare problemi di incostituzionalità e così via, ieri è esplosa alla Camera dei Deputati, è esplosa su un emendamento che era riferito alla deroga al Trentino Alto Adige, ma quello che poi è avvenuto è che immediatamente i rapporti si sono diventati arroventati tra 5 Stelle e PD. E a oggi il testo, dopo l'incidente, su richiesta del PD si è pronunciata l'Aula, torna in commissione. La domanda che alcuni di voi hanno fatto è: fateci capire che cosa può avvenire, si riprende il filo di un discorso, questa però è una domanda politica, non è una domanda tecnica, oppure tecnicamente che cosa può avvenire? Molti di voi pongono la domanda, ma se ritorniamo indietro, cioè ai dispositivi vigenti per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale sul Senato e sulla Camera, leggi che, come sapete, in materia gli interventi della Corte Costituzionale sono considerati però tecnicamente tali da poter consentire comunque le elezioni, virgola, alcuni hanno anche ricordato sì, ma il Capo dello Stato ha sempre detto che occorreva un intervento. Effettivamente tra il testo Senato e Camera, dopo gli interventi della Corte, ci sono differenze rilevanti, non solo in ordine alle diverse soglie. Questo ci potrebbe stare, visto che secondo il dettato costituzionale i criteri devono essere diversi, ma sono relativi anche al fatto che da una parte c'è chiaramente l'indicazione liste, dall'altra potrebbero essere possibili le coalizioni. Insomma, molti di voi chiedono di capire che cosa è possibile attendersi. Ok, nel frattempo, ma questo già lo sapete, un aggiornamento solo britannico: sapete che dopo la punizione che gli elettori britannici hanno riservato alla richiesta di elezione anticipata avanzata da Theresa May, e che i laburisti hanno votato, se non l'avessero votata non ci sarebbero state le elezioni anticipate in Gran Bretagna, perché il Premier non è più titolare, come era storicamente in Gran Bretagna, del diritto di chiedere alla regina le elezioni anticipate. Ci vuole un voto di 2/3 del Parlamento. I laburisti lo hanno votato e dal loro punto di vista bene hanno fatto i laburisti di Corbyn, perché la May non ha la maggioranza sui 650 seggi, la maggioranza per fare un governo da solo. C'è questo accordo in extremis coi 10 eletti degli unionisti dell'Irlanda del Nord, che consentirebbero quindi agli eletti del Partito Conservatore più i 10 unionisti di superare di 2 unità, di 2 seggi, la soglia della maggioranza. Quindi il tentativo comunicato alla regina è quello di andare avanti e formare un nuovo governo, ma la sconfitta della May è plateale. L'hard Brexit mi pare sfumata, perché proprio l'accordo con i 10 eletti nordirlandesi crea un problema che prima non c'era, quando c'era la maggioranza solo dei conservatori, sia pure divisi al loro interno tra chi vuole la hard Brexit, chi era per il Remain e chi la voleva soft. Perché il partito unionista dell'Irlanda del Nord, nei suoi 30 punti programmatici, poiché è l'unico pezzo della Gran Bretagna che ha un confine fisico con l'Unione Europea, cioè con la Repubblica d'Irlanda, perché ovviamente il Regno Unito c'ha la manica al mare, chiede nei suoi 30 punti tre cosette non proprio secondarie in relazione alla Brexit, perché chiede la libera circolazione delle persone, la frontiera non c'è perché è mai stato in Irlanda tra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord, e quindi l'Irlanda del Nord si preoccupa e dice noi vogliamo la libera circolazione delle persone, quella che però la May non vuole. La May voleva la libera circolazione delle altre tre libere circolazioni, cioè dei capitali, dei beni e dei servizi, ma non quella delle persone. E l'Unione Europea diceva, se non volete quella della persone, non ci avete neanche le altre tre e non ci avete il mercato unico. Però l'Irlanda del Nord vuole la libera circolazione delle persone, in più vuole comunque mantenere l'accesso ai fondi comunitari agricoli e ai fondi di coesione europei. Capite bene che è un po' complicato mettere insieme questo con il voto referendario della Brexit, ma vedremo. Questo solo per dire che chiedere elezioni anticipate a volte suscita delle reazioni imprevedibili o comunque impreviste da parte degli elettorati. Ma torniamo a noi, perché io a questo punto ho deciso di passare la palla a chi di legge elettorale per mestiere, professione, vocazione e interesse ne sa un milione di volte più di me. Quindi abbiamo due ospiti nel corso della trasmissione a cui chiediamo lumi per tentare di spiegare ai nostri ascoltatori cosa è lecito attendersi. Se nel caso di un mancato accordo su una qualunque altra ipotesi, sempre che l'opinione non sia che si possa tornare a tessere un accordo su quel testo che è saltato alla Camera, ma in quel caso c'è un'altra ipotesi immaginabile? Terza domanda, che cosa invece è immaginabile tecnicamente che si debba, tra virgolette, si debba fare per votare con i dispositivi come emerso dalla Corte Costituzionale? Ecco, il primo ospite è il professor Stefano Ceccante, che insegna diritto pubblico comparato all'Università della Sapienza. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Grazie, buon pomeriggio. Allora, cominciamo per ordine, e la prima però è una valutazione politica che le chiedo. È possibile secondo lei che si ripristini una convergenza? Non mi sembra ragionevole, nel senso che mi sembra che il partito di maggioranza relativa, cioè il Partito Democratico, voglia stare alla larga da riforme a stretta maggioranza. Mi sembra piuttosto difficile realizzare una maggioranza ampia che dovrebbe essere analoga a quella che è caduta. Poi qui ognuno di noi può avere le sue ricostruzioni sulle responsabilità e così via. Io dico solo questo. Avevo capito, diciamo, dai miei studi di diritto parlamentare e dalla legislatura che ho fatto senatore, in cui quando tu fai un accordo parlamentare tra più forze, ognuna delle quali rinuncia a qualcosa, una volta che hai rinunciato, per così dire, si cede la sovranità al risultato complessivo, nessuno ritorna sulle proprie posizioni originali pretendendo di votare quello e nessuno fa più aggravamenti di procedura come richiedere ex post unilateralmente un consenso ai propri iscritti, perché quello deve averlo maturato prima. Quindi da questo punto di vista, al di là del fatto che venivano ripresentate in aula cose di parte, il punto di svolta vero è stato non ieri la votazione ma ieri l'altro, quando il Movimento 5 Stelle, per alcuni problemi che può aver avuto al suo interno, ha chiesto di fare ha deciso unilateralmente di fare un referendum di ratifica prima del voto finale. Quello segnalava che l'accordo in qualche modo era rotto, perché o fai un accordo all'inizio che comprende la possibilità per ciascuno di far ratificare i suoi, ma lo stabilisci all'inizio, oppure se decidi unilateralmente questo, l'accordo di fatto non c'era più. E perché all'inizio poi era stato ratificato nel voto online dei militanti. Ma uno volendo fa un accordo, al momento in cui fa l'accordo dice guardate però che noi alla fine dei lavori chiederemo il consenso, ma le regole sono chiare per tutti prima e magari anche gli altri possono dire sì, anche noi lo chiederemo in forme varie, però si stabilisce all'inizio. Una volta che si è chiuso un accordo non si può dire sì, però all'improvviso io devo risentire i miei, perché questo vuol dire che l'accordo non c'è più. Non c'è più. Allora, domanda, l'emendamento la cui proponente poi l'onorevole Biancofiore di Forza Italia ha detto ma tanto se non fosse venuto su questo emendamento sarebbe venuto sicuramente su altro, il che dà ragione a lei ovviamente professor Ceccante. Quell'emendamento non è un incidente di percorso, è d'accordo anche lei? Sì, cioè nel senso che l'accordo non c'era più. Perché voglio dire, un conto sono i dissensi singoli, l'onorevole Biancofiore ha sempre sostenuto quelle posizioni come altri gruppi potevano, però nel momento in cui il Movimento 5 Stelle come gruppo decide di votare una cosa, cioè, che mette le dita negli occhi a uno dei partiti della maggioranza, perché su Tirolo Volkspart fa parte della maggioranza di governo, certo, ha un gruppo parlamentare al Senato che è determinante numericamente, non è composto solo da eletti del Sud Tirol e Volkspartei, è un gruppo che si chiama Gruppo delle Autonomie, che mi sembra abbia 19 senatori. Sì, sì, esatto. È chiaro che votare come gruppo una cosa del genere significa fare una cosa esplosiva. E infatti poi, l'ordigno è esploso. Esatto. Allora, detto questo, partendo quindi da questo primo chiarimento, la sua opinione è no, è politicamente irragionevole immaginare che si torni a una convergenza. A questo punto, il ritorno in commissione di quel testo prelude a una presa d'atto di questa impossibilità di procedere, mi sbaglio? Sì, cioè di fatto è una resa, cioè ci si rende conto che non è possibile, si va in commissione, ma con l'idea che sarà difficile ritrovare un altro testo di consenso. Allora, a questo punto passiamo a un altro corno del problema. Ipotizziamo, di conseguenza dico, che quindi non ci sia più possibile una convergenza su un testo organico, diciamo così, tra le grandi forze politiche, e che quindi, mi corregga se sbaglio, è gioco forza a immaginare che qualunque sia la data delle elezioni ci si va con il dispositivo Corte Costituzionale, così? A rigor di logica, io, mi sembrerebbe la conclusione più normale. Ecco, la domanda che ci fanno gli ascoltatori è, siccome hanno letto sui giornali, Mattarella però dice ci vuole comunque un intervento del Parlamento. Che tipo di intervento, partendo dal minimo al massimo, è coerente con il dispositivo della Corte rispetto a come vengono disegnate le norme dalle sentenze per la Camera e per il Senato? Fin dove ci si può spingere? Qual è il minimo e qual è il massimo e quali sono le conseguenze, secondo lei? Dunque, allora, dobbiamo stare attenti a distinguere ciò che è opportuno politicamente da ciò che è necessario, esatto, costituzionalmente. Sì. Il presidente Mattarella, fin qui nei suoi interventi, si è mosso sempre su un ragionamento di alta opportunità, praticamente dicendo, ora banalizzo quello che ha detto il presidente Mattarella, avendo il referendum confermato che due Camere danno tutte e due la fiducia, cerchiamo di rendere i sistemi più simili possibili. Sì. Questo è un ragionamento di alta opportunità politica e fin qui ci siamo. Però fin qui non ha mai teorizzato, e spero che nessuno teorizzi, che ci sia una necessità giuridica di fare una cosa del genere. Quindi uno può decidere, per esempio, che siccome al Senato ci sono le coalizioni e la Camera le liste, si faccia la scelta o mettiamo le coalizioni tutte e due o le liste tutte e due. Benissimo, questo è un ragionamento di alta opportunità. Però se noi ci mettiamo a teorizzare che non si può votare prima di fare degli interventi, se poi gli interventi non si fanno, che si fanno? Non si vota mai più? Perché questo ragionamento inibirebbe non solo uno scioglimento anticipato, ma inibirebbe qualsiasi scioglimento. Quindi anche quella scadenza naturale. Quindi diciamo che in Italia non si vota più. Quindi questa tesi giuridica io la considero pericolosa. Per di più, secondo me, questa tesi, che ove vera fosse pericolosa, vera non è. Nel senso che diciamo, ci sono due ragionamenti su buchi possibili, se vuoi li spiego, sì, che però secondo me buchi non sono, ove si faccia un'interpretazione senza particolari forzature della situazione. Quali sono questi due possibili buchi? Ecco, il primo è questo. Noi abbiamo conservato le coalizioni al Senato. Sì. Le coalizioni al Senato, in sostanza la legge del Senato dice si possono fare coalizioni. Come si fanno le coalizioni? Andate però a leggere la legge della Camera. Questo dice il testo unico del Senato. Solo che questa legge della Camera era la legge Calderoli. La legge Calderoli, su questo le coalizioni poi sono scomparse con l'Italicum. Esatto. Quindi oggi quando uno va col link dal sito normativa, sul sito, normativa, quelle norme sulle coalizioni non ci sono più. Non ci sono più. Però il sito normativa c'è anche una cosa che ti dice mi dai che cosa c'era prima qui a questo articolo, e cliccando cosa c'era prima ritroviamo le norme sulle coalizioni. Allora, diciamo, lei non ci crederà, ma uno studente di diritto costituzionale mi ha esattamente citato questo caso dicendo devo intendere che vale il pregresso o non vale il pregresso e allora l'intervento è necessario? Esatto, qui ci sono tutta una serie di teorie giuridiche sui rinvii. Questo è un rinvio puntuale, quindi quella norma lì rivive perché è citata in quanto tale, non è citato genericamente. No, certo. Quindi lo studente ha, secondo me, colto bene che tipo di rinvio è. C'è quel rinvio lì, anche se sono state espunte, quel rinvio era la legge previgente, funziona il link alla legge previgente, il buco non c'è. Questo è il primo problema. Il secondo problema è questo. Il che significherebbe dare una risposta a come si fanno le coalizioni per il Senato, restando che però poi nel dispositivo Corte-Camera le coalizioni non ci sono. Corretto? Non ci sono, esatto. Si possono presentare le coalizioni solo al Senato. Ok. quindi rivive solo per presentare la Corte Costituzionale. E questo è il primo buco. Ok, bene. Il secondo? Il secondo buco è questo. Allora, quando la Corte Costituzionale ha fatto la sentenza numero 1, cosa ha detto? Che non ci potevano essere liste bloccate lunghe al Senato e quindi ha inventato la preferenza unica al Senato, che non c'era mai stata prima. Domanda, ma noi la norma per poter stampare una scheda con un righetto per metterci sopra il cognome del candidato e i criteri che dicano quello che ha preso più preferenze viene eletto, dove li prendiamo? Ora, è vero che quando la Corte ha fatto la sentenza non c'erano le preferenze né al Senato né alla Camera e quindi la Corte parla lei stessa nella sentenza di trovare un modo attraverso anche un regolamento per colmare questa lacuna. Questo è il punto. Però successivamente è stato fatto l'Italicum e l'Italicum alla Camera ha delle preferenze. Quindi siccome anche in questo caso anche in questo caso, siccome c'è un rinvio nella legge del Senato, alla fine della legge del Senato si dice tutte le cose che non trovate qui, se non le trovate, provate a cercare nel testo unico della Camera. Il testo unico della Camera si ricava abbastanza ragionevolmente che essendoci lì la preferenza, lì c'è una preferenza unica, ci si metterà una riga unica e si proclameranno in ordine dei risultati e quindi il problema non c'è. Poi addentellato a questo ragionamento c'è un terzo ragionamento che è questo, ma noi abbiamo cambiato l'articolo 51 che deve portare a norme favorevoli all'equilibrio di genere nella rappresentanza, bisognerebbe inserire la doppia preferenza che c'è alla Camera anche al Senato, sì, ma questo lo può fare il Parlamento, ma lo può fare se lo vuole, cioè nel senso anche se noi ritenessimo che la legge è incostituzionale per omissione per così dire, perché non c'è la preferenza doppia, o il Parlamento si convince a votarla o non si convince, anche a scrutinio segreto, perché se non si convince il nostro sarà pure un ottimo argomento, ma si vota uguale, cioè non è che questo impedisce il voto. Di andare a votare, chiarissimo. Quindi insomma, visti questi problemi che sussistono, le soluzioni ci sono, quindi tecnicamente si può andare a votare con il dispositivo. Ecco. Fermiamoci qui per il momento e ringraziamo il professor Stefano Ceccanti per la chiarezza, spero che tutti abbiano capito. Si può andare a votare, l'intervento chiesto dal Capo dello Stato, dice il professor Ceccanti, è di opportunità, non è di stretta necessità giuridica e l'opportunità, se non ci sono convergenze politiche, ovviamente questo appartiene alla sfera della politica, valutare e a come voi giudicate la cosa, però allo Stato, dice il professor Ceccanti, qua di convergenze non sembrano essercene. Grazie al professor Ceccanti, noi un minuto di informazioni sulle strade e poi torniamo col professor Roberto Dalimonte. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta. La versione di Oscar. Allora, This is the end, l'ho detto ieri, poteva essere sia per la legge elettorale che per la Gran Bretagna. Per la Gran Bretagna abbiamo appurato che non sbagliavo troppo. Fine dell'illusione di Theresa May di rifondare addirittura i principi del Partito Conservatore nell'anniversario della vittoria della Thatcher, della seconda vittoria, 1983, in questo giorno la Thatcher riconquistava dopo aver vinto nel 1979 e dopo la guerra del Falkland il suo primato. Mi pare che è tramontato l'idea del conservatorismo sociale di Theresa May, però avete sentito dal professor Ceccanti le risposte che ad alcuni di voi che dicono ma come, ma non sarebbe possibile prendere una delle leggi elettorali esistenti e che hanno dato già buona prova di sé e approvarle. Cari ascoltatori, non ditelo a me che sono sostenitore di questa tesi da anni. Il punto è che per fare questo bisognerebbe immaginare rapporti politici tra le grandi forze e questi rapporti tra PD e 5 Stelle a oggi non ci sono ed è difficile immaginare che tornino. Berlusconi, se avete sentito la sua richiesta, è quella di tornare a un accordo su quel testo, però quel testo è saltato e quindi non se ne può parlare. La mia opinione, per quello che conta, è che in questo paese effettivamente 20 anni avrebbero dovuto insegnarci che invece di ingegnarci ogni volta i partiti a modelli di grande inventiva, ma pieni di accrocchi, piuttosto che adottare uno dei diversi modelli di legge maggioritaria che hanno dato diverse buone prove di sé nel mondo, quello francese, quello britannico, quello americano, eccetera, oppure proporzionale, quello tedesco, e invece di inventarci ogni volta di modelli che non hanno resistito alle stagioni politiche e non hanno resistito soprattutto alla Corte Costituzionale, occorreva probabilmente adottare uno di quelle altre leggi elettorali. Però i partiti politici non hanno mai voluto farlo. Questo appartiene a come noi giudichiamo l'operato dei partiti, diversamente, ma insomma questo è un dato di fatto, e a oggi ci troviamo in questa singolare condizione. Allora, si è collegato con noi, lo ringrazio, il professor Roberto Dalimonti, che insegna al sistema politico italiano alla LUIS, scrive per il Sole 24 Ore, è direttore del Centro Italiano Studi Elettorali. Anche a lui faccio le stesse domande fatte al professor Ceccanti. Quindi sono in buona sostanza due. Primo, se anche lui giudica impossibile un ritorno a rapporti politici tra le grandi forze su quel testo, e secondo, i nostri ascoltatori chiedevano: nel caso in cui nessun'altra convergenza, bisogna procedere quindi con il dispositivo effetto delle sentenze della Corte su Camera e Senato, ha ragione chi ritiene comunque necessario un intervento parlamentare, oppure è superfluo e si possono usare le strade, cioè secondo Ceccanti sì, per i quali l'intervento non è necessario ma è al massimo opportuno? Grazie di essere con noi, professor Dalimonte. Grazie a voi per l'invito, però Giannino, invitarmi insieme a Ceccanti non è divertente, sa? Perché io e Ceccanti la pensiamo praticamente allo stesso modo. Lo so, e però, no, questa però è una battuta, Giannino, è solo una battuta. E alla prima, comincio dalla seconda domanda. Sì. La Consulta ci ha detto che questi due sistemi elettorali sono auto-applicativi, li ha fatti lei con due sentenze. Quindi se sono auto-applicativi, e ce lo dice la Consulta, applichiamoli. Ora, il presidente Mattarella pare invece poco convinto che siano completamente auto-applicativi. Allora ti faccio sapere in che cosa non sono auto-applicativi, e il Parlamento si darà da fare. Noi l'abbiamo già visto nella prima parte, cioè in effetti come si formano le coalizioni al Senato, c'è un rinvio alla legge della Camera, la legge della Camera non c'è, dice il professor Ceccanti, si risolve però con il rinvio a come erano disposte precedentemente, lei è d'accordo? Ma sì, queste cose si devono risolvere pragmaticamente, quindi poi la Corte, ripeto, la Consulta ci ha detto che sono auto-applicativi, quindi una volta tanto, io sono molto critico nei confronti della Consulta. Idem. Ecco, quindi una volta tanto che ci dice una cosa, in questo caso siamo seguiamo quella strada. Seguiamo quella strada lì. Poi un'altra questione è se sarebbe meglio fare delle correzioni. Qui ci sono, le correzioni si dividono in due categorie, quelle neutrali e quelle che invece sono conflittuali. Facciamo un esempio, una correzione neutrale sarebbe quella di sostituire il sorteggio introdotto dalla Corte nel caso dei plurieletti, spieghiamo che ci ascolta, no? Che un deputato potrebbe essere eletto in più di un collegio, e prima dell'intervento della Corte poteva scegliere lui, e in questo modo poi determinava chi entrava in Parlamento praticamente. Giustamente in questo caso, solo in questo caso, giustamente la Consulta ha bocciato questa norma e ha introdotto il sorteggio. Ora il sorteggio non va bene, meglio invece introdurre una norma del tipo che il plurieletto viene eletto nel collegio dove ha ottenuto più voti. Però se mi pare di capire, professor, stiamo parlando di insomma pur importanti dettagli, quindi adesso io purtroppo il tempo è finito, ma come avete capito la risposta, ascoltatore, alla domanda, sono auto-applicative davvero? Sì, tranne alcuni particolari, ma non sono invalicabili e non richiedono grandi convergenze politiche. Questo non ha a che vedere, ve lo ripeto, con la data del voto, ma alla domanda si può votare, la risposta è sì, gli effetti poi li misureremo, coalizione da una parte e lista dall'altra, ma questo è tutt'altro paio di maniche. La politica ci doveva pensare prima. Grazie anche al professor Dalimonte e al professor Ceccanti. Continuiamo sulla 24, appuntamento con me, Carlo Alberto Cannavale Maffè, Mario Seminario, che però domani non c'è, dalle 10 alle 12 ai Conti della Belva.